Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati e approfitto un po' della situazione che si è creata nel nostro paese per portarvi a visitare delle cose meravigliose, i lazzaretti. La nostra Italia è ricca ancora di questi antichi edifici e spesso sono edifici di grandissima qualità artistica e architettonica. E allora andiamo ad Ancona, dove nel porto, proprio esattamente nel porto, venne costruito nella prima metà del Settecento un grande lazzaretto, una grande mole, la mole vanvitelliana. Questa struttura venne naturalmente costruita nell'acqua, è un pentagono vero e proprio, nell'acqua perché bisognava isolare completamente le persone che venivano collocate qui non perché erano malate, ma venivano messe in quarantena, cioè era una forma di appunto tutela delle merci e anche delle persone. E per realizzare questo edificio il Papa, perché Ancona era uno dei grandi porti dello Stato Pontificio, chiamò niente meno che uno dei suoi grandi architetti, cioè Luigi Vanvitelli, che poi farà una grande carriera soprattutto a Napoli con i Borboni, perché gli faranno fare niente meno che la Reggia di Caserta. E infatti è un edificio di grande qualità. Intanto c'è un portale che sembra di entrare naturalmente in un palazzo, ed è curioso che persone che dovevano fare la quarantena venissero accolte in un edificio così pregevole, tra l'altro tutto scolpito di marmo d'Istria che veniva dall'altra parte dell'Adriatico, era facile portare dall'altra parte questo marmo. Poi all'interno di questo pentagono c'era un tempio aperto, un grande tempio neoclassico. Che cosa serviva questo edificio? Semplicemente serviva per celebrare la messa, e le persone stavano nelle ali, nelle cinque ali del pentagono, e assistevano alla messa senza contattarsi. Quindi era un sistema per salvare la pelle e anche salvare l'anima attraverso questo curioso sistema, che vedremo anche in altri, che sono presenti in altri lazzaretti. E quindi questa storia è continuata, perché il lazzaretto poi è stato una struttura militare e oggi per fortuna è una struttura legata alle belle arti e alle mostre, quindi continuiamo a poterlo visitare.